Academic writing e scrittura di ricerca sono due cose nettamente diverse, separate e distinguibili e vanno lasciate distinte. Scrittura di ricerca sperimentale o complessa, come vogliamo dire, è comunque una scrittura lineare o a volte anche con elementi verbovisivi, ma che comunque è leggibile, cioè è composta di caratteri alfabetici, siano essi latini, cirillici, greci o altro, cinesi, giapponesi, che comunque sono decifrabili. La stessa cosa non si può dire per la semic writing, la scrittura asemica. La scrittura asemica è una forma di grafia che imita, si avvicina, poi è analoga alla scrittura alfabetica, ma non è composta da lettere riconoscibili, quindi è una scrittura inventata che non può essere tradotta, che non può essere letta. Confina per questo con il disegno, con l'arte del geroglifico inventato, non esistente e come tale intraducibile.